preliminarmente un brevissimo ma molto sentito ringraziamento a Maurizio Locusta che mi ha voluto qui con voi in questa splendida serata fra libri meravigliosi, a Gabriella Bonacchi per la sua amabile presentazione bibliofila. E il tema chiavi della modernità, i libri, mi sembra di assoluta pertinenza e assolutamente pregno di tantissime stimolazioni intellettuali. Il mio compito era quello di intrattenervi sulla enciclopedia, sull'enciclopedia. E questo strumento di insegnamento, per insegnare, ma anche, come ha detto giustamente il presidente Giuliano Amato, di inseguire lo scibile, rendendolo attraente, rendendo attraente in particolare gli specialismi anche per la gente comune. E questo avviene proprio per volontà di Denis Diderot, che amava la posterità e demandava alla posterità, cioè a noi, il compito dell'aggiornamento continuo e costante della enciclopedia. Una enciclopedia che emigra dall'Inghilterra, quindi dall'estremo nord, prima verso la Francia e poi verso l'Italia. E io questa sera vorrei sottolineare a voi, farvi partecipi, del ruolo che l'Italia ha avuto nel Settecento delle enciclopedie, che è un ruolo importante e che si è trasferito anche nella storia. L'enciclopedia è una impresa di grandissimo rilievo, i volumi sono tantissimi. Sono tantissime anche le tavole, due volumi di tavole straordinarie che si sviluppano tra il 1751 e il 1780. È un'impresa complessa, perché immaginate che cosa sia stata la governance, che è sviluppata prima da D'Alembert e Diderot e poi soltanto da Diderot, per mettere insieme tutta questo sapere enciclopedico in questi tanti libri. E io credo che niente rappresenti meglio dell'enciclopedia il Settecento, che fu un secolo di snodo proprio fra l'antico e il moderno, un secolo che è dominato dai lumi della ragione, che lo caratterizzano con il movimento proprio dell'illuminismo, di cui tanto si è parlato questa sera. È un illuminismo che è molto ben delineato e spiegato da Immanuel Kant, che fu il filosofo più significativo di quell'epoca stupenda. Kant nel 1784, in risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo, diceva: il pubblico uso della propria ragione deve essere libero in ogni tempo, ed esso solo può attuare il rischiaramento tra gli uomini. Dunque, l'obiettivo dell'illuminismo fu quello di rischiarare culturalmente gli esseri umani, e il secolo, il Settecento, si adeguò ricercando strumenti proprio adatti a facilitare in particolare l'istruzione, in quello sforzo di penetrazione generalizzata e diffusa di cui faceva riferimento il presidente Amato quando diceva che imponeva all'enciclopedia la necessità della chiarezza della spiegazione degli specialismi. In quel secolo la cultura vi regnò sovrana, assumendo quindi anche connotazione politica, come la stessa enciclopedia assume una connotazione politica. E questa enciclopedia settecentesca costituisce il primo concreto tentativo proprio di unificazione dei saperi, riunendo in un linguaggio comprensibile a tutti le conoscenze letterarie, filosofiche, in generale umanistiche, e le conoscenze di carattere scientifico, tecnologico e tecnico. Quindi una riunione di quella diatriba che emergerà poi a fine 800, primi del 900, delle due culture, la cultura scientifica e la cultura umanistica. Io credo che l'enciclopedia francese costituisca il tentativo più concreto di dare uniformità espressiva al linguaggio scientifico e tecnologico, equiparandolo proprio al linguaggio del quotidiano, per operare in concreto l'insegnamento del fare e dunque anche dell'intraprendere che Diderot aveva messo in atto proprio costruendo questa monumentale opera. Il sapere enciclopedico assume nel Settecento, dicevo, un ruolo politico di collegamento fra le enciclopedie che precedettero l'opera di Diderot e d'Alembert e quelle che seguiranno nell'Ottocento e poi fino ai giorni nostri. Si passò da forme prevalentemente letterarie a veri e propri strumenti di carattere sociale che si prefiggevano lo scopo di una diffusione generalizzata del sapere, assumendo quindi come tali anche dimensione, come dicevo, politica. L'enciclopedia fu grande impresa editoriale, seppe ben interpretare lo spirito della ragione, incuriosendo e orientando i lettori e strutturando un'educazione rivolta proprio ai giovani, a quelli che Diderot chiamava la posterità, diventando una premessa essenziale per la costruzione della loro personalità proiettata verso l'innovazione del futuro. E la pubblicazione dell'enciclopedia, come è stato ricordato, fu presentata da un prospectus scritto da Diderot nel 1750, prospectus che poi diventerà una appendice al discorso preliminare di D'Alembert, pubblicata nel primo volume. Siamo dunque alla metà di quel secolo del Settecento, e ciò concorrerà ulteriormente a caratterizzarlo come periodo proprio di cultura diffusa, dove la rilevante produzione libraria determinerà un grande desiderio di lettura alimentato da continue e inarrestabili circolazioni di libri, e questo fatto va interpretato come una delle principali chiavi della modernità dell'illuminismo, perché è vero che era secolo di censura, però era anche secolo di grandissima diffusione letteraria. Darton, che è stato ricordato, ha sviluppato la propria opera monumentale anch'essa proprio sulla complessità e sulla molteplicità di libri che nel Settecento si pubblicarono, e in particolare in Francia, ma non soltanto in Francia, perché a proposito di enciclopedia bisogna dare atto proprio all'Italia e alla sua lingua di aver svolto ruoli di grande importanza in questo ambito del sapere. Io vorrei ricordarvi che già come premessa nel Cinquecento un prolifico scrittore di Bagnacavallo, un paesino dell'Emilia Romagna, uno scrittore che si chiamava Tommaso, ovvero Ottaviano Garzoni, vissuto tra il 1549 e il 1589, compilò una vera e propria enciclopedia, espressione completa e attenta della società del suo tempo. La pubblicò nel 1585, premettendo al testo vero e proprio una presentazione che io trovo assai esplicativa. Diceva: discorso universale in lode delle scienze e delle arti liberali e meccaniche in comune. Quindi lo spirito di Diderottiano già era presente in questo autore del 1500. L'enciclopedia fu intitolata La piazza universale di tutte le professioni del mondo, e in essa l'autore, appassionato del meraviglioso e dello strano, si interessò delle professioni e ai vari mestieri, ma anche alle occupazioni più singolari, persino a quelle legate alle tipiche attività della malavita, di cui fa ampia descrizione. A riguardo, poi, vorrei ancora ricordarvi un abate barese di Bari, che si chiamava Giacinto Gimma, vissuto tra il 1668 e il 1735, che propose un proprio schema di sistematizzazione della conoscenza, sul quale impostò una sua nuova enciclopedia, curiosa e interessante, che ricerca un ordine metodico e organico nella costruzione proprio del sapere. E poi c'è Vincenzo Coronelli, che pubblica a Venezia il primo volume della Biblioteca Universale Sacra e Profana Antica e Moderna. Ricordo che Coronelli, celebre forse più come cartografo per aver fabbricato in particolare quei due grandi mappamondi che ancora oggi sono presenti alla Biblioteca Nazionale di Parigi. E fra l'altro proprio di quella che è la premessa dell'enciclopedia francese, la Ciclopedia di Ephraim Chambers, autore inglese, apparsa a Londra nel 1728, l'Italia svolse un ruolo fondamentale. Tutta l'avventura dell'enciclopedia nasce dalla volontà di tradurre in Francia la Ciclopedia di Chambers, e in questo si avvicendano diverse personalità fino a quando si arriva ad affidare il compito a Diderot e poi ad Lambert. Intanto, in data del 1 gennaio 1746, un libraio veneziano, Giambattista Pasquali, tenete conto della data, 1746, l'enciclopedia esce nel 1721. Pasquali annunziava con un opuscoletto di 123 pagine, quindi una sorta di prospectus ante litteram, l'intenzione di procedere alla stampa del dizionario delle arti e delle scienze di Chambers. L'opera di traduzione promossa dal Pasquali era stata sponsorizzata dall'ambasciatore inglese a Venezia, Joseph Smith, ma fu temporaneamente sospesa perché era giunta notizia da Napoli che un'analoga traduzione era già uscita nel settembre-ottobre del 1747 a cura di Giuseppe Maria II. Quindi Napoli con Giuseppe Maria II anticipa Venezia e anticipa in pratica la traduzione francese della Ciclopedia di Chambers. La pubblicazione napoletana continuerà con quattro volumi che sono usciti tra il 1747 e il 1748, forse il quarto in realtà uscì nel 49, il quinto nel 51, l'ottavo e ultimo nel 54. Poi Venezia completerà anche la sua traduzione. Quindi in Italia ci sono due traduzioni di Chambers, Napoli e Venezia. Napoli anticipa Venezia, intanto in Francia si discute come attuare la traduzione della Ciclopedia di Chambers. Io credo che allora le notizie viaggiavano forse ancora più rapidamente che oggi con internet, e quindi io penso che Diderot venne a conoscenza, molti autori dicono della traduzione veneziana della Ciclopedia di Chambers, io dico probabilmente proprio di quella napoletana di Secondo che aveva anticipato Venezia, e questo fatto che fosse stata già tradotta la Ciclopedia di Chambers in una versione in una lingua molto simile a quella francese, penso abbia spinto Diderot a fare un'altra cosa, cioè non a portare avanti la ma a farne una propria e quindi a cambiare le regole del gioco. Sulle motivazioni che dettero origine alla grande enciclopedia si può appunto costruire, io credo, questa ipotesi, tenendo conto che Diderot cita anche nel suo prospectus, che diventerà il vero e proprio programma editoriale dell'opera, tracce interessanti proprio di possibili collegamenti della enciclopedia con la traduzione napoletana del 47. Infatti, scrive Diderot nel prospectus, l'enciclopedia di Chambers, dalla quale sono state pubblicate a Londra varie edizioni in breve tempo, questa enciclopedia di recente tradotta in italiano, e questo lo dice Diderot, e che a nostro avviso merita gli onori che le vengono attribuiti in Inghilterra e all'estero, non si sarebbe forse mai fatta se prima che essa apparisse in inglese non fossero già esistite nella nostra lingua opere dalle quali Chambers ha attinto oltre misura e senza discernimento la maggior parte delle cose che ha messo nel suo dizionario. Che cosa avrebbero dunque pensato i nostri francesi di una traduzione pura e semplice? Essa avrebbe suscitato l'indignazione dei dotti e le proteste del pubblico. Ed ecco dunque che nasce la nuova opera, una opera effettivamente nuova e non una traduzione. Il fatto che vi ho raccontato io trovo che sia molto molto importante proprio per i risvolti che l'Italia ha in questa in questo contesto. E a proposito vorrei ricordare anche un importante tentativo di promuovere successivamente alla enciclopedia di Diderot e Lambert una nuova enciclopedia italiana da parte dell'abate veneziano Alessandro Zorzi, vissuto purtroppo pochissimo dal 1747 al 1779. Nel periodo tra il 1777 e il 79, Zorzi coinvolse molti degli illuministi italiani, pubblicando a Siena, dove trovò ambiente favorevole da un punto di vista culturale e molto stimolante, uno straordinario libro che oggi possediamo, che si chiama Prodromo della nuova enciclopedia italiana. È un singolare, proprio affascinante progetto, purtroppo non portato a termine per la morte prematura, a soli 32 anni dell'autore, riguardante la redazione di una enciclopedia italiana sull'esempio di quella francese di Diderot e d'Alembert e di quella inglese di Chambers. Quindi una terza però interpretazione della enciclopedia. Zorzi aveva predisposto il suo progetto che non doveva essere una volgarizzazione della francese, scrive Zorzi, ma un'opera da realizzare seguendo l'esperienza di quella francese, mercé i prudentissimi avvertimenti che da essa ammaestrato ci dà il signor Diderot nell'articolo proprio Enciclopedia. E quindi l'opera di Zorzi è un'altra opera rilevante proprio per l'esposizione del suo piano generale, per la sua caratterizzazione delle singole aree tematiche, per i vari contributi che in questo libretto, non tanto libretto, ma insomma piccolo libro rispetto a quello che sarebbe stato un'enciclopedia, ci presenta. Fra l'altro il documento di Zorzi è testimonianza importante proprio della vivacità della lingua italiana dell'epoca ed è utilissimo per la conoscenza dell'illuminismo così come si era sviluppato nel nostro paese. Poi ci sono ancora altri autori come Matteo Dandolo, l'abate Giovanni Coi che intraprendono tentativi per la realizzazione di enciclopedie. E così, voglio dire, nel settore dell'enciclopedia la traduzione, la tradizione italiana sarà mantenuta viva nei secoli che seguiranno fino ai nostri giorni. Nei primi anni del Novecento si realizza l'enciclopedia Treccani, della quale noi abbiamo stasera l'onore di avere l'attuale presidente. Vorrei fare anche un piccolo riferimento a un'altra enciclopedia che trovo importante perché la sua connotazione innova il concetto enciclopedico interpretandolo nel senso dell'era del computer e mi riferisco all'enciclopedia Einaudi che aveva una rete di rimandi fra le varie voci che la rendono appunto una enciclopedia proprio quasi computerizzata, anche se questo fatto a mio modo di vedere rende più difficile il viaggio che chi si appresti a consultare un'enciclopedia vuole compiere, nel senso che consultare un'enciclopedia è proprio seguire la legge dei rimandi secondo la propria sensibilità è una veramente esperienza intellettualmente meravigliosa, mentre attraverso l'enciclopedia Einaudi i rimandi precostituiti rendono più rigida il viaggio e quindi meno così meno avventuroso. È meno laboratorio ed è più esatto, avanzato. Perfettamente. E così, insomma, io vorrei chiudere perché non vorrei, l'ora si è fatta tarda. Possiamo lasciare un po' di spazio. E anche per lasciare un po' di spazio alle domande, però volevo soltanto ancora ribadire come l'Italia abbia avuto sia nei secoli precedenti, cioè nel 1500, e sia successivamente un ruolo di estrema importanza. E non soltanto per la diffusione, così come ci testimonia per esempio questa bellissima edizione che ci ha presentato la Fondazione Basso, ma proprio per il fatto che si è resa promotrice di una volontà enciclopedica, di una volontà di incatenare il sapere in un discorso enciclopedico, che oggi in particolare, e lo ha ricordato il Presidente Amato, vede l'Enciclopedia Treccani ancora primeggiare ed avere un ruolo fondamentale nella nostra cultura. Grazie per la vostra attenzione. Grazie molto, grazie.